Ad alta voce, Monica Piseddu legge Il gioco dei regni di Clara Sereni. 23esima puntata. Una crisi c'è e non posso far finta di non vederla. So che non è su queste pagine che posso risolverla e so di essere migliore di quel che appaio in queste mie note. Ma bisogna pur inchiodare in qualche parte questo pezzo di Sereni che non va e guardarlo bene in viso. Pigliarlo a schiaffi se è necessario. Ora faccio così. Lo lascio un po' fare e sbizzarrirsi in queste note a modo suo, finché gli passa. È peggio per lui se ci prova gusto a crogiolarsi nelle sue romanticherie. Mamma, quando ero piccolo, faceva così. Una volta all'anno mi prendeva in qualche grande occasione una vera mattana, generalmente rivolta contro P. Diventavo furioso davvero ed ero capace di tirargli addosso qualcosa da ammazzarlo. Allora mamma mi legava come un salame senza sgridarmi. Poi, quando io stesso le dicevo che era passata, mi slegava e si poteva star tranquilli che non combinavo più guai. Un unico filo dall'infanzia alla maturità e per sempre. E ciò che si è perso pesa sulla bilancia con il peso delle foglie secche, morte e senza linfa, utili tutt'al più per concimare. A 40 anni come a 20 Mimmo sceglie posizioni settarie, giudizi spesso sommari. Trova difficile sottilizzare quando si ha di fronte un nemico e agguerrito. La fine della guerra ha segnato la caduta ufficiale del fascismo, e neanche così netta. Sue scorie potenti si incontrano a ogni passo e i burocrati insediati nei ministeri restano inamovibili. Ma questa pace precaria si regge su due schieramenti rigidamente contrapposti e dunque ancora chi non è con noi è contro di noi. Le durezze, le semplificazioni, la speranza, la fede, la caparbietà, la fatica, una fatica così grande da stancargli il cuore. Ma avanti, senza fermarsi e senza esitare, perché una vita diversa per Mimmo sarebbe niente, perché trovarsi ogni giorno le ragioni per lottare significa tener lontani i bruschi traballamenti del vivere, quel grigio di assenza e di dubbio, negato e insidioso, che sa essergli di rischio. Il grigio è tutto ciò che deborda dalla rete, la rete di progetti e desideri che Mimmo continua a tessere senza requie. Il grigio è Manlio, che ancora vorrebbe essergli compagno e fratello, ma intanto percorre sue strade autonome, fuori dal partito, fuori dai dogmi, allo scoperto. Mimmo copre con il sarcasmo la sofferenza di non averlo più accanto, di non poter più duplicarsi in lui. Quando si tratta di Rossi Doria, le asprezze consuete dello scontro politico assumono toni lividi, velenosi, come negli amori finiti. Il disprezzo dissimula il dolore senza poterlo cancellare. Il grigio è Leuzzi, la figlia già ragazza che non gli corrisponde, che si muove ed agisce secondo coordinate per lui incomprensibili, che non accetta di posporre le proprie ragioni a quelle della politica. O magari il grigio è Marinella, per la quale il marchio degli anni difficili è un obbligo di lotta che le fa temere, di fronte a Mussolini giustiziato a Piazzale Loreto, di non aver più nemici contro cui impegnare la propria vita, un obbligo che la fa fragile e molto triste. Il grigio è anche questa figlia nuova, un frutto già fuori stagione e di serra. Mimmo non ha visto crescere le altre se non a balzelloni, e ora il piccolo progredire quotidiano di questa lo inquieta per le mille potenzialità di scarto che vede dispiegarsi sotto i propri occhi senza che sia possibile prevedere con certezza, indirizzare con sicurezza. Paure confuse e antiche gli si fanno avanti quando cerca in lei somiglianze e affinità. Sulla fronte bombata e pallida della bimba risalta un ricciolo ribelle che nessun fermaglio riesce a tenere a bada. Oppure il grigio è Xenia, che ora è più elegante e accurata, ma sempre troppo pallida, con un precipitare di malanni tormentoso e irragionevole. Il grigio è anche dentro di lui. Il vecchio Adamo, le scorie del passato che è necessario eliminare per farsi uomo nuovo. gli brucia la qualifica di intellettuale posta accanto al suo nome nel congresso del partito. Vive come una colpa grave le proprie origini borghesi. Cerca accanitamente di emendarsi, di farsi migliore e più utile. Al partito, alla classe operaia, alla rivoluzione mondiale, ha obiettivi così numerosi e certi e alti, Mimmo, che ogni dubbio deve essere tacitato, perché nessuna briciola di energia vada sprecata e trovi nel partito la giusta collocazione. Però il grigio è anche in certe sparizioni di cui sa ma non parla, nelle domande che non si possono porre, in tutto quello che altri dopo chiameranno la doppia verità. Per Mimmo la verità è e non può che essere una. Per respingere i grigi, per mantenere ben contrastata la sua religione del mondo, è disposto a molte acrobazie intellettuali, a molte rinunce affettive. Gli amici di sempre sono lontani, ora che la guerra è finita, più di quanto non lo fossero al tempo della cella di isolamento. E quei pezzi di famiglia in terra di Palestina sono parte di molte contraddizioni. Un isolamento pesante, una solitudine indispensabile. Perché soltanto attraverso la solitudine e la distanza e le cesure progressive i pezzi della sua vita possono ritrovare ogni volta ordine e unità. Una stanza segreta dentro di lui, disordinata e ingombra e dolorosa e viva. Una stanza a cui solo Loletta ha accesso, a tratti, e nessun altro. Quando Anna, la figlia maggiore di Enzo, decide di sposarsi, Mimmo chiede di essere lui ad accompagnarla al tempio, ad esserle padre. La sacralità del rito, fra i superstiti dei rastrellamenti e dei lager, lo restituisce a un mondo che non ha smesso di appartenergli. Ha la kippà in testa e il libro fra le mani, e un sorriso fra sé e sé quando l'officiante incespica nella lettura di una parola. L'altra figlia di Enzo è ospite in quei giorni in casa sua. Agar, nata in una notte di febbraio mentre Enzo con le parole della politica scriveva a Mimmo dell'affetto. Agar, che deve il suo nome all'auspicio di un dialogo con gli arabi che ancora non si è realizzato. E c'è anche il fratello più piccolo, Daniel, l'unico maschio che sia nato dai tre fratelli sereni, l'unico che potrà proseguirne il nome. Interrompendo il lavoro, attraversando la casa silenziosa, una notte Mimmo va a chiamarlo. Lo porta con sé nello studio fra le pareti alte di libri, gli mostra fotografie e ricordi. Apre per lui la grande busta dei regni. Spiana pian piano con le mani i foglietti sbiaditi. Si impegna a decifrarli per Daniel, che fatica a leggere l'italiano. Poi per ore racconta di sé, di Enzo, delle speranze che erano state comuni, dell'affetto così grande che li univa. Daniel più volte si commuove. Anche Mimmo a tratti ha la voce che si rompe, gli occhi lucidi dietro gli occhiali. All'alba, i contorni della stanza ammorbiditi dal fumo delle sigarette che Mimmo ha accese una dopo l'altra e le facce stanche di Mimmo e di Daniel, tanto simili nei lineamenti e nella pena. Per la strada lo sferragliare del primo tram, la casa costruita da Lello con accorgimenti antisismici si scuote fin dalle fondamenta. Daniel vorrebbe sentire ancora di suo padre, di quell'infanzia perduta che nessun altro potrà raccontargli mai, e della rottura tra i fratelli di cui conosce il dolore ma non le ragioni. Mimmo si toglie gli occhiali, si passa una mano sugli occhi. Quando rinforca gli occhiali e prende in mano la penna, ha tutta l'autorevolezza e la distanza del dirigente politico. «Adesso devo lavorare», dice. Daniel insiste con le domande. Non gli importa la stanchezza, la testa che fa male e gli occhi gonfi. Vuole sapere ancora. Per la sua insistenza Mimmo improvvisamente si irrigidisce. I molti fogli sparsi sul suo tavolo lo chiamano via. Daniel resta raggomitolato sulla poltrona che era di Lello e ora la sua presenza gli è insopportabile per quel pezzetto confessato di sé su cui non vorrà più tornare. Per mandarlo via, per cancellare la notte, Mimmo di punto in bianco si scaglia con violenza contro i progetti ebraici in Palestina, contro l'esperienza dei kibbutzim, contro tutto quello per cui Enzo è morto e per cui ancora Ada si sta battendo. Il ragazzo Daniel prova a controbattere, negli occhi ha quella stessa scintilla che Mimmo di Enzo conosceva così bene. Siete soltanto dei fanatici, oltretutto provinciali. Sibila Mimmo a chiudere il discorso. Ma Daniel non si lascia allontanare, risoluto a difendere la propria vita. Cercando di non farsi schiacciare, avanza interrogativi e pone problemi. E solo quando non ha più altre parole si appella all'affetto, a tutta quella vita comune di cui hanno parlato poco fa. Mimmo rifiuta quel terreno, anzi si irrita. Delle argomentazioni, della tenacia, del pallore di sofferenza e coraggio che invade il viso di Daniel, dell'affetto cui non vuole essere richiamato. Poi il ragazzo china il capo vinto, asciugandosi rabbiosamente un'unica lacrima che gli corre sulla guancia. Cupo Mimmo torna alle sue carte. Non saluta Daniel quando lascia lo studio, non gli dice come sempre buon riposo. Come volesse cancellare da sé anche lui, per camminare più sciolto verso il futuro. Pochi giorni dopo, Mimmo avviò le pratiche per uscire dalla comunità israelitica. Alfonso era stata molto chiara. I quattrini dell'eredità di Lello non dovevano finire in politica. Così Mimmo e Xenia pensarono a una casa da costruire e scelsero Formia, a metà strada fra Roma e Napoli, che era il collegio elettorale di Mimmo. Una casa lontana dal mare, in alto perché a Mimmo il caldo appesantiva il cuore. Olivi, limoni, una pianta di fichi rigogliosa. L'eredità di Lello non era poi una gran cifra, così tutto fu fatto in economia. Le fondamenta non molto profonde, i laterizi di recupero. Nella buca utilizzata per la calce durante i lavori, Xenia fece mettere sabbia e un rubinetto dell'acqua lì vicino perché la bimba potesse giocare. Con gli alberi che erano stati tagliati fece dei sedili. Piantò zucche rampicanti e fragole, basilico e pomodori e i topinambur dai grandi fiori gialli. Le mani le si rovinavano, però toccare la terra la restituiva agli anni andati, agli orti che aveva coltivato a Parigi e a Cabirole e a Nizza. Sulla spiaggia, in costume da bagno, dicevano che sembrava più giovane dei suoi anni, e davvero anche lei si sentiva leggera, pronta, quasi spavalda di fronte alle difficoltà e agli imprevisti. La bimba somigliava come una goccia d'acqua a com'era stata Leuzzi. Così per Xenia non era strano quel sentirsi madre per la prima volta, con il tempo per dirsi la felicità dei primi passi, delle prime parole, e vederla abbronzata e soda cancellava le preoccupazioni, le ansie. Ieri ho portato sulla spiaggia anche Clara. Le insegnavo a fare le buche sulla spiaggia. La sabbia era fine e tiepida e scivolava sotto le dita, e Clara mi guardava con molta attenzione. E il mio atteggiamento e la bimba mi hanno fatto risorgere ricordi di tanti anni fa, Leuzzi con me a Ostia, ma c'era allora su di me un'oppressione continua, la sofferenza di avere Mimmo in carcere. Ed ora mi pareva così strano essere libera, saper Mimmo efficiente al suo posto di lavoro e poter fare una cosa così inaudita come riposarmi al mare con le mie bambine. Giocando sulla spiaggia, sudata, un giorno Clara si infilò nell'ombra sotto le cabine e giocava a non farsi prendere, resistendo per una manciata di minuti a minacce e profferte. Quando si decise a venir fuori, rideva, ma era tutta gelata. Di sera, quando già la febbre era alta, mentre le bagnava la fronte e i polsi, Xenia si accorse di una crepa. L'intonaco approssimativo già con le prime piogge cominciava a cedere. Per tutta la notte, faticosa e insonne perché la bimba delirava, quella crepa la assillò e sembrava allargarsi ad ogni occhiata. Roma, 15 agosto 1947. Forse perché era uscito in maniche di camicia, forse perché era Ferragosto, forse perché in una sera d'estate a Roma il rosso delle fette di melone alla luce delle lampade ad acetilene ha un'efficacia sentimentale irresistibile su di un giovane signore solo. O forse perché l'altro ieri ho compiuto 40 anni per la prima volta. A rifletterci bene, il punto che mi vinse fu quello delle maniche di camicia. Da quando non sono più ministro, provo una particolare voluttà a uscire la sera senza giacca e senza il poliziotto appresso. L'andare in giro, senza che la carica ufficiale ti imponga le premure e gli ossequi della gente, ha su di un ex ministro un effetto notevolissimo. In primo luogo gli dimostra che, a parte purtroppo le persone che lo conoscono di vista, egli non porta affatto scritta in viso la sua qualifica e che nessuno si sogna di offrirsi a portargli la valigia o simili. Il che, dopo un certo periodo di vita ministeriale, è un'utile messa in guardia contro la vanagloria delle umane posse. Ma sarei ingiusto verso me stesso se dicessi che questa è la ragione principale e morale della voluttà che provo ad uscire la sera in maniche di camicia. La verità è che, dopo questo periodo di attività ministeriale, sento ancora più forte il desiderio ed il piacere di essere solo e confuso fra la gente qualsiasi, purché sia sconosciuta. È la stessa ragione che mi ha fatto apprezzare sempre come un gran piacere il vagabondaggio per le vie di una città straniera. Questo, insomma, è stato il punto che mi ha vinto. Ed ho finito per non pensar più non soltanto all'articolo per Rinascita, ma nemmeno, e questo è davvero un record di perversione sentimentale, al mio lavoro sui canti popolari. Mi sono messo a pensare invece alle torture da me subite a Nizza e al mio atteggiamento di allora, con simpatia e con un po' di nostalgia quasi quasi. Ho pensato a quella presenza del dolore e poi a quella continua della morte per tanti mesi, alle SS. Sono avvenimenti che hanno segnato una svolta importante della mia vita, se non del mio carattere. Mi hanno fatto certo più maturo, più sicuro di me e della mia lotta. Ma mi sono sentito come allora vittorioso e certo di una ben più grande vittoria, con una rinnovata fiducia nell'umanità, che è più difficile ritrovare, si intende, nelle notte più minute, talora meschine, di ogni giorno. E per questo parlavo in un certo senso di nostalgia. Che è poi una sciocchezza perché, per fortuna, perfino nella lotta contro la grettezza e l'insidia democristiana, sono ormai capace di trovare quella stessa fiducia. Ma il fatto che lì la posta fosse più direttamente la vita o la morte dava un rilievo più evidente alla nostra certezza. Niente di romantico, comunque, in quel senso di nostalgia. Forse solo la gioia per la liberazione dalla morte, che si prova quando nella lotta si rinuncia alla vita, per qualcosa che vale più della propria vita individuale. E questa gioia resta per sempre, una serenità nuova, quella che conquistai quando ci salutammo e credevamo che fosse l'ultima volta con Loletta. Ero contento. Solo sentivamo un rammarico bambinesco di non poter andare alla fucilazione insieme, tenendoci per mano. Ed era un rammarico ardente, proprio come quello di un bambino che sta per entrare in un bel giardino, ma sa che gli è proibito mangiare dei frutti del più bell'albero. Forse quel giorno con Loletta ci siamo accorti che tutto quello che volevamo dal nostro amore potevamo raggiungerlo, lo raggiungevamo. Forse allora sono riuscita a convincere Loletta che avevo avuto ragione a scegliere lei, che non mi ero sbagliato, come lei tante volte temeva nella sua modestia, in quel suo amoroso senso di una mia superiorità. Ed io vorrei saper scrivere solo per dire tanto di Loletta, che è il mio amore. Anche per quel suo humor. Fra tanti aspetti diversi, opposti, direi, dei nostri caratteri, vi è questo forse che ci ha permesso una così perfetta comunione. Né in me né in lei, mi pare, questo humor traspare o si manifesta all'esterno. Che all'esterno, anzi, con la mia passione e veemenza, capisco di dover apparire piuttosto scarso in questo senso. Eppure, in me come in Loletta, questo è un tratto assolutamente dominante. Quel certo distacco che nasce dal senso della limitazione di ogni realtà, della sua inadeguatezza, un distacco che permette di considerare con una certa bonarietà uomini e cose, anche le più nemiche, che permette di sorridere, non di ridere, ad un funerale o dinanzi ad un plotone d'esecuzione, che permette di sorridere di sé e degli altri. Quello humor che mi rende impossibile di arrabbiarmi, anche quando faccio l'arrabbiato, che mi porta involontariamente a mettermi nei panni del mio peggior nemico ed in un certo senso a giustificarlo, a comprenderlo, anche se so che debbo combatterlo e lo combatto aspramente. Forse la sorgente di questo humor è diversa in Loletta e in me. Più originaria in Loletta, in me più cosciente prodotto di una profonda fiducia nelle magnifiche sorti e progressive dell'uomo. Certo è però che nelle manifestazioni di questo umorismo ci incontriamo sempre. Ho sorriso al processo al tribunale di guerra e chiedevano la pena di morte per 6 di noi ad uno strafalcione del procuratore e avrebbe sorriso Loletta. Mentre mi torturavano ed ero già mezzo svenuto, il mio pensiero dominante era quello, un po' ironico, vediamo un po' come si comporta questo Sereni. E quando ci salutammo per l'ultima volta, consegnai, punteggiato sul libro, una specie di mio testamento per il partito, per lei, per le bimbe. Era una cosa seria e sentita seriamente, profondamente. Ma pure poi, in camera caritatis, letteralmente, che il buon carabiniere, diventato ormai mio amico, ci lasciò per delle ore soli in cella, facendo la guardia fuori perché nessuno venisse a disturbarci, in camera caritatis, dicevo, non mancammo di sorridere su certi aspetti della situazione nella quale questo nostro ultimo intimo colloquio aveva luogo, col carabiniere in funzione di milizia di vigilanza demografica. E se non fosse così anche Loletta, se non potesse capire perché son capace di considerare con quel distacco umoristico che non è mancanza di impegno e lei e me e il nostro amore, non avremmo mai potuto fare del nostro amore quella comunione sempre più profonda che esso è. Finisce così la 23esima puntata di Il gioco dei regni di Clara Sereni, un modo per ricordare la scrittrice scomparsa l'anno scorso, la voce è quella di Monica Piseddu, in questo ciclo del programma ad alta voce a cura di Anna Antonelli e Fabiana Corobolante con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, la regia Riccardo Amorese. Vi ricordo che le puntate sono via via riascoltabili sul sito raiplayradio.it. E sullo stesso sito potete trovare gran parte, se non tutto, la programmazione quotidiana di Fahrenheit e di moltissimi altri programmi.